Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Chiudiamo lo speciale dedicato alla blockchain tentando di lanciare uno sguardo al di là, diciamo, della situazione attuale. Abbiamo spiegato nelle puntate precedenti come la blockchain, nel caso andatevele insomma a risentire per qualche approfondimento in più, ma insomma sia la tecnologia informatica su cui peraltro si basa Bitcoin e che ha sempre più applicazioni, che rappresenta la possibilità di spingere, diciamo così, alle estreme conseguenze il processo di disintermediazione che è già in corso e che ha visto trionfare, diciamo, finora soggetti come per esempio Amazon piuttosto che Airbnb o Uber. Ecco, in qualche modo la promessa della blockchain è proprio questa, cioè quella di far sparire, diciamo così, anche questi intermediari e anche altri tipi di intermediari come quelli che gestiscono i vari registri pubblici, dal notariato alla motorizzazione, dalla camera di commercio al catasto. Ecco, allo stesso tempo abbiamo visto che non è così facile. Oreste Pollicino ci ha spiegato che ci sono dei problemi, come per esempio garantire la correttezza dei dati all'origine, e un altro problema per esempio è l'enforcement del dato, come quando la magistratura deve sequestrare o deve confiscare un bene. Ecco, problemi di questo genere non sono risolvibili attualmente con le blockchain pubbliche come quella su cui è costruito Bitcoin. Quindi che cosa succederà? Chiediamo questa sorta di oracolo a Cosimo Accotto, che è filosofo di formazione, visiting scientist presso il Sociotechnical System Research Center del MIT di Boston. Buonasera, benvenuto Cosimo Accotto. Bentrovati. Allora, insomma, grandi aspettative, però anche dei limiti che vengono sottolineati. Allora, nella sostanza direi questo: la tecnologia Bitcoin e blockchain è una tecnologia che si candida, come ricordavi giustamente tu, a diventare infrastruttura socio-economica. Che vuol dire due cose, diciamo così: che da un lato, come dire, ad oggi ancora la tecnologia presenta tutta una serie di limitazioni tecniche legate alla infanzia, cioè al fatto che questa è una tecnologia giovanissima. L'altro aspetto che ricordavi giustamente anche tu è che se questa tecnologia in nuce si candida a diventare infrastruttura, beh, questa infrastruttura è destinata, come dicevi tu, a fare disruption di ecosistemi dove appunto agiscono attori che hanno, come dire, dei domini consolidati su quelle aree. Ricordavi le banche, ricordavi i notai, certo, eccetera, e questi ultimi non hanno, come dire, l'interesse in qualche modo a essere disintermediati, appunto, a come essere con facilità ovviamente disintermediati, estromessi. Rimane certo il tema centrale che, come qualcuno ha scritto, nel 2008 il genio è uscito nuovamente dalla lampada e c'è sul tavolo una innovazione tecnologica che, ripeto, si candida, come dire, a essere un competitor forte di infrastrutture e di sistemi socio-economici presenti. E forse alcuni limiti sono dei limiti appunto dovuti a questa giovinezza, quindi i limiti che potrebbero essere trovare una soluzione di tipo tecnologico, come è accaduto mille volte in passato. C'è una community di sviluppatori che in qualche modo portano avanti, anche a livello, se vuoi, ideale e ideologico, l'idea di questa architettura peer-to-peer, e quindi mi immagino che molti, se non alcuni, se non tutti, si stiano ponendo esattamente questi problemi, verranno progressivamente risolti. Rispetto appunto a questi temi, al pericolo, diciamo, di disintermediazione che molte categorie potrebbero sentire, ecco, c'è anche una reazione positiva e dice: bene, ma attenzione, ma che problema c'è? Sì, magari qualche pezzo della nostra attività lo perderemo, ma noi possiamo cavalcare queste tecnologie. Come la vedi? In genere, se usiamo anche, se vuoi, un paragone storico, le telco all'arrivo del web, come dire, all'inizio ebbero un atteggiamento dissonante, quindi criticarono profondamente il nuovo protocollo, l'arrivo delle nuove applicazioni, e all'inizio cercarono di costruirsi, avendone intuito comunque il potenziale, di costruirsi delle internet private. Dopodiché poi, come dire, il percorso storico invece ha in qualche modo mostrato che le internet private cosiddette avevano del valore, ma non tutto quel valore che poi abbiamo, come dire, scoperto una volta che internet si è aperta. La stessa cosa, se vuoi, sta accadendo oggi. oggi. Oggi non sono più le telco, ma magari sono le banche, e cominciano, come dire, dopo un primo periodo di rifiuto totale, quasi scaramantico, no? Se non ne parliamo non succede niente. Di attacco frontale, diciamo così, alle nuove tecnologie. Adesso, avendone in qualche modo, se vuoi, intuito le potenzialità di efficientamento, cominciano a dire: beh, noi potremmo cavalcare questa nuova tecnologia, potremmo costruirci delle blockchain private, cercando di, da un lato, utilizzare le potenzialità dell'efficientamento, ma dall'altro, se vuoi, un pochettino negando invece il potenziale di disintermediazione che queste tecnologie in sé tenderebbero in qualche modo a produrre. Quindi cercare di utilizzare le nuove tecnologie per migliorare l'esistente, non per fare disruption dell'esistente. Grazie Cosimo Accoto. Grazie a voi della chiacchierata e buon lavoro. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a settimana prossima. Ricordate che dal podcast potete ascoltarvi, insomma, tutte le puntate di questo speciale Smart City dedicato alla blockchain. Buon fine settimana.